Eccoci qua. Eccoci qua. Buonasera. Senza sigla stasera. Senza sigla, molto più. Siamo entrati a gamba tesa, come si suol ringraziamo dire. Ringraziamo l'Alice. Che è qui dentro comunque. Sì. Che ci ha fatto l'assist. Di cosa hai parlato oggi, Alice? Informazione di Radio F. Informazione di Radio F. Generica. Generica. E iniziamo questa puntata, quindi iniziamo con un compleanno, sempre con la formazione ridotta, perché uno è malato, quell'altro è ritardatario cronico, dovrebbe arrivare, quindi a suo tempo arriva. dovrebbe arrivare. Va bene, parolone. Non abbiamo neanche la base, ovviamente, no. Stai scherzando? Senti che voce limpida. No, perché il ritardato cronico si è portato via la chiavetta, non so cosa c'è e non ce l'ha detto né la base né la sigla. Perfetto, noi quindi oggi siamo molto più schietti, dai. Sì, iniziamo con il compleanno di oggi. Oggi c'è un compleanno solo di Leon Russell Wilkinson, nato a Newport, Rhode Island, il 2 aprile del 1952 e purtroppo deceduto il 27 luglio del 2001. È stato un bassista statunitense noto per essere stato tra i membri fondatori del gruppo Lynyrd Skynyrd. Lynyrd Skynyrd. Fino dal 72 fino addirittura alla sua morte proprio nel 2001. Sai che Lynyrd Skynyrd è la storpiatura di un suo vecchio professore? Sì, sì, la sapevo la storia. Matematica. E che poi mi sa l'hanno ripresa anche i Simpson. Sì, si chiamava Skinner, appunto. Leonard Skinner. Che era il preside. Però il preside, forse. Ah, il preside. Dei Simpson. Sì. Però lui aveva un accento, diciamo, abbastanza caratteristico, e non è che diceva Leonard Skinner, diceva Lynyrd Skynyrd. E allora è nato così un gruppo rock. Ringraziamo Leonard Skinner e noi facciamo i nostri migliori auguri a Leon con Saturday Night Special Lynyrd Skynyrd. We'll be right back. Lynyrd Skynyrd, Saturday Night Special, ricordando il compleanno e purtroppo anche la morte, purtroppo sì, di Leon Russell Wilkinson. Cominciamo con la storia degli anni 70. Oggi 1970. Ci avventuriamo negli anni 70. Abbiamo scavalcato il 1969. Ha detto la chianina, scavallettato. Scavallettato, sì. E giungiamo a grandi falcate verso gli anni 60. No, no. 70. 70. Ero attento, visto. Me la son fatta da solo, esatto. Allora, gli anni 70 possono essere definiti il periodo d'oro del rock, con una vera rivoluzione. L'introduzione di tastiera, ad esempio, fu uno dei grandi cambiamenti di quel periodo. L'affacciarsi di nuovi gruppi, ma poi soprattutto nuovi arrangiamenti musicali. È l'epoca delle sperimentazioni di tantissimi sottogeneri. Tra le band di maggior risalto, in questi anni citiamo i Led Zeppelin, che contribuirono alla scrittura di un pezzo significativo della storia del rock, gli intramontabili Rolling Stones, Beatles, Pink Floyd, AC/DC, Velvet Underground, Doors, Sex Pistols, Ramones, e poi cantanti come Janis Joplin, Bob Marley, Iggy Pop, Frank Zappa, Patti Smith, Alice Cooper, insomma chi più ne ha più ne metta. Nessuno, E senza base ti si sente meglio. Sì. Senza base non mi ci, sai che non mi ci ritrovo. Sì, anch'io, è molto strano. Perché infatti, quando abbiamo i momenti di silenzio in cui non sappiamo che dire, c'è la musica. C'è la base. Giustamente. Che ci salva. Allora te la metti un pochino. Che ci metti sotto? No, tecnico? Ma lo sai che improvvisiamo, dai, improvvisiamo. Improvvisa, senti che c'è. Usa che un po' c'è di quelle, metti un po' di... Esatto. Vai, perfetto. Perfetto. Benissimo. Benissimo. Insomma, benissimo. Però è rock, no? Continuiamo. No, ascolta, però parliamo dei Pink Floyd. Sì, con Pink Floyd sotto. Capiamo. Ci vuole il silenzio assoluto. Ad esempio, per l'appunto, i Pink Floyd sono tra i gruppi che hanno sfruttato le infinite variazioni musicali che gli permettevano gli strumenti, generando quasi un nuovo genere musicale fatto di canzoni interminabili, poche parole, sogni in Technicolor e l'immancabile chitarra che emetteva suoni sempre più strani e sempre più nuovi, avvicinandosi sempre più alla fine dei mitici anni 70. In particolare nel 77 cominciò a formarsi un nuovo movimento che ben presto, come al solito, divenne anche un genere musicale, il punk rock. Rock and Roll Never Die, recitava Neil Young in una sua famosa canzone del 79. Al di là dei proclami, era chiaro quanto fossero critiche le condizioni di un genere musicale che aveva per molto tempo fatto parlare di sé. E iniziamo la prima parte della storia del 1970 con Your Song di Elton John. E vi andiamo a enunciare proprio la storia di questa canzone. A denunciare. Denunciare. Denunciamo. Quando sei innamorato non pensi a nient'altro, almeno ai primi tempi. E Bernie Taupin era molto innamorato ai primi tempi. Faceva colazione quella mattina, come tante, del 27 ottobre 69, ma aveva in testa soltanto la sua fidanzata. Altro che caffè e cornflakes. Il tuo Bernie, eh? Già. E avrebbe voluto essere altrove, nonostante l'affetto che provava per quel ragazzo con cui divideva la casa e che scriveva musiche bellissime. Bernie Taupin tese l'orecchio, nessun rumore. Elton John dormiva ancora, i genitori di Elton, perché quella era la loro casa, erano fuori. Prese un foglio di carta e cominciò a scrivere «It's a little bit funny, this feeling inside». Era davvero un po' buffo essere innamorati. Del resto era la prima volta che lui aveva appena 17 anni, ma tanto valeva... No, io qui non ci sono con la testa oggi. Prova. Insomma, quando Anton sentì un rumore che si svegliò, inavvertitamente diede un colpo alla tazza del caffè. Ecco perché il manoscritto originale di Your Song ha quelle macchie marroni. Barry Taupin fece leggere all'amico quello che aveva scritto. Elton rimase molto colpito e compose al volo una musica molto melodica e molto romantica. Conosceva la ragazza di cui Bernie era innamorato e, parole sue, non voleva svegliarli dal torpore amoroso nel quale erano immersi. 20 minuti dopo la canzone era finita. Sarà il primo successo di Elton John, quello che fece dire a John Lennon: Elton John è la cosa più bella che abbia mai sentito dopo i Beatles. Funny, this feeling inside. I'm not one

che è un numero, è stata il numero, oddio, non è tradotta. Eccoci, ci siamo. Ok, oggi ragazzi è lo sbaraglio. Lo sbaraglio totale. Se manda la corrida a sta puntata. Allora, buonasera. Buonasera. ABC è un numero uno hit del 1970. Oh, allora, qui voleva dire che è stata la hit numero uno dell'anno 1970. Mm. Per l'appunto del gruppo Jackson 5. È stata scritta, adesso lo sto interpretando, è stata scritta con lo stesso disegno. Ok, intendo che, presumo che intenda disegno di composizione, composizione strumentale delle note musicali, sì, da applicare. Comunque, come I Want You Back, ed è stata sentita sull'American Bandstand sulla rete ABC nel febbraio 70. Per l'appunto, la canzone ABC è stata al primo posto nella Billboard Hot 100 del 1970 ed è stata anche al numero uno della classifica dei singoli per 4 settimane di fila. Complimentoni. Jackson 5 con ABC. Attenzione, una notizia ansia in diretta. E vai. Comunque mi sa che non ce la fa. Dai, allo. Va bene. Bisogna, vabbè, lasciamo stare. Ti pago una birra dopo. Cioè, qui lui mi chiede io aprirei il televoto per far votare a tutti per sapere chi è. Secondo voi? Chi può essere? A. Helmut Newton. No. B. Matteo Renzi. No. C. Riccardo Bindi. E sono indeciso. Se, no, però è facile perché c'è scritto allo. Ah, eh beh. Penso che a Firenze non si dice. Non si dice, quindi. Il poro Helmut. Penso che non lo sappia, no, neanche. Penso di no. E allora andiamo avanti. Ma lo vedi che cioè, sì, sì, questo sì, è sì, ricattabilissimo. Sì, sì. Sì, sono prove. Capito? Secondo lui io mi vendo per una birra. Sparia già Paolo, vai. Cioè, rossa doppio malto, Bindi, grazie. Pubblicata nell'album In Rock del 1970, questa cavalcata epica che dura oltre 10 minuti fu scritta nel 1969 dopo che John Lord si mise alle tastiere e fece ascoltare al resto della band il riff di Bombay Calling, una canzone degli It's a Beautiful Day, che non erano degli U2, attenzione, gruppo di San Francisco nato nel 1967. Sembrava fresco e originale e soprattutto sembrava l'ideale come base per un'altra canzone. I Deep Purple erano molto concentrati sul tema della guerra fredda e provarono a lavorare su un testo che avesse a che fare con quell'argomento. Il primo verso venne di getto, Sweet Child in Time, I'll See the Line, e subito dopo la spiegazione di quella linea, quella di demarcazione tra il bene e il male. The line that's draw between the good and the bad. La struttura è apparentemente semplice, tre accordi, un assolo di 2 minuti, parte con un giro di Hammond e un canto all'inizio quieto e poi sempre più indemoniato. In realtà Child in Time è strutturata come una suite dove ogni elemento è perfettamente incastonato. Curiosità per i feticisti: Ritchie Blackmore, famoso per la sua Fender Stratocaster, qui invece suona una Gibson. Deep Purple, Child in Time. Sweet child in time, you'll see the line that's drawn between good and bad. See the blind man shooting at the world. Taking toll. If you've been bad, oh Lord, I bet you have, and you've not been hit by a flying lead. You'd better close your eyes. Thank you. Deep Purple, Child in Time. Questa era la parte indemoniata che dicevamo prima. Esatto. Ciao Masa. No, aspetta, lascia. No, cava. No, vai, puoi andare avanti. Bella canzone. No, bellissimo. È una bella canzone. Lasciamola. Lasciala sottofondo. Dai, lasciala. Oggi è all time rock and roll e altro. Barra Sanremo. Ok. Ci risalremo questo? Ma non lo so, ho tirato lì. Buono stesso. Come direbbe Davide, lo salutiamo. Siamo. Ciao Davide. Quanto hai vinto oggi, Davide? Manda un messaggio, per favore. Ci sta. Tutti i giorni. Tutti i giorni vince lui. Lui è l'unico che è fortunato sia in amore che nel gioco. Oddio. Cioè lui gliene da sé che più riscuote. Come sì? Lascia perdere. Siamo in fascia protetta. Allora, andiamo avanti con Looking Out My Back Door, che è una canzone registrata dai Creedence Clearwater Revival. Vi mancavano? No, direi di no. Come no? Dai, grandi, io le adoro. La canzone è stata scritta dal cantante della band, chitarrista e compositore, che si chiama Joe Fogerty. Esatto, la risposta esatta. C'è solo lui nei Creedence. Poi io non li so i componenti. No, neanche io quell'altro li conosco. Non so lui. Come si chiamano. Che ha continuato ad avere una carriera da solista di successo dopo la rottura della band del 73. Questo lo ricordiamo sempre. Sì. Tutte le descrizioni. Esatto. Il brano è incluso nel loro album del 1970, Cosmos Factory. Il quinto album del gruppo, che era anche il loro quinto e ultimo numero 2 nella Billboard Hot 100 degli album. E questo album è stato considerato come il migliore del gruppo, dunque è stato proprio, diciamo, l'opera ultima, sì, per eccellenza. E è stata certificata disco d'oro nei primi anni 90, è diventato anche disco di platino. Insomma, non proprio. Disco di platino mi sembra 1 milione di copie vendute. Sì, minimo. Mi sembra. Poche. Beh, insomma. In Italia, in America è di più. Ah, giustamente. In Italia, giustamente, diciamo, in Italia. In base a abitanti, sì. Nel 2003 la Cosmos Factory si è classificato alla posizione numero 265 sulla rivista Rolling Stone nella lista delle 500 migliori album di tutti i tempi. Tuttavia l'album segnò il declino e la conseguente fine della band, purtroppo. Questa canzone è un omaggio diretto alla musica Bakersfield, che è una forma di musica che ha influenzato John Fogerty e il suono Creedence. Looking Out My Back Door, Creedence Clearwater Revival. Creedence con Looking Out My Back Door, molto country. Sì, questa esatto, canzone, questa molto canzone è da viusterone in mano e da birrozzo con il cappello da texano. Continuiamo con una delle prime anche sua apparizioni nel mondo della musica rock di Santana. Oh. C'è un momento. Quella, ma nella... fermo. Sì, dimmela. Ma sua moglie. L'hai mai vista suonare? Sì, sì, sì. No? Io sì. Mai. Masa, sarà insieme. A concerto. A Perugia. A Perugia. Mamma mia. Un quarto d'ora di assolo di batteria. Ah, suona la batteria lei? Ma può come? Sì, ma solo un quarto d'ora, ah. Però si devasta. Cioè, nel senso, perde 25 kg. Da tutto quei 15 minuti. Mamma sì. Mia. No, lui la chiama, dice: questa è mia moglie. Ah, sì. Brava, sì, va bene. Nel senso. Poi si mette lì. Sembra di essere a rullo per volo, uguale. Cazzo, allucinante. No, è bravissimo. No, dicevamo giusto di Santana. Ora la descrizione dice: senti, c'è un momento tuffi, senti sì, c'è un momento nella biografia di Bruce Springsteen scritta da Dave Marsh dal titolo tanto per cambiare, come direbbe un nostro amico Spristi, dimmi vediamo se la sai, dimmi come si chiamava la biografia di Bruce Springsteen secondo te. Bruce Springsteen? No. Bruce Springsteen 1? No. Ti aiuta, il nome di una canzone. Grazie. Born to Run. Ah, quella è la sua biografia? Sì, si chiama così. Mi sfuggiva. Che descrive alla perfezione il senso di frustrazione di chi ha dentro qualcosa che non riesce a esprimere e che finalmente un giorno capisce che la musica può essere il veicolo giusto. E quando Springsteen dice che la prima volta che ha avuto il coraggio di sostenere il suo stesso sguardo allo specchio senza scappare è stato quando ha preso una chitarra in mano. È lo stesso principio alla base di Samba Patì di Carlos Santana. Passava davanti allo specchio e non riusciva a fermarsi, perché quello che vedeva, come ha ammesso in un'intervista a Mojo nel novembre del 2008, non era lui. Mollo. Mojo. No, Mollo, Mojo. Mollo. Cosa vuol dire Mojo? Io non capisco. Mojo. Ancora con questa storia di Mollo. Io sono là 24 ore al giorno. 24. Ma mollo. Cosa è diventato il calcio? Una giungla, mollo. Ok. Insomma, non era lui quel ragazzo allo specchio. Voleva essere qualcun altro, un musicista come B.B. King o George Benson. E gli ascoltatori incoraggino il narratore, lo incoraggino invece che contestarlo. Mollo. Cosa contestano? E allora una brava persona. Quel pomeriggio il nostro Carlos prese la chitarra e cercò di tirar fuori quello che aveva dentro: la rabbia, l'insoddisfazione, l'orgoglio, la voglia di vivere in prima persona. E nacque per l'appunto Samba Patì. Quando qualche mese dopo, nel 1970, in quella stessa camera, la radio trasmise per la prima volta la sua canzone, Santana corse allo specchio e quel che vide gli piacque. Nel bene o nel male era diventato finalmente se stesso. Thank you. grande Carlos Santana con la sua Samba, Samba Patì. Comunque, bello sto smalto, Vigarba? Sì, bellino, bellino. Sì, mi dona. Sì. Che è verde? Ho finito l'acquaraggio a casa. Mi diletto da presunto pittore e poi non mi viene via la vernice dalle unghie. Un classico. Esatto. Come nella migliore tradizione. Me dicevi, Masa, scusa? Ah, fuori onda, c'era questo fuori onda. Ah, te la spiego io, te la spiego. Allora, sarà a giocare, no, lunedì. Non era sabato. No, lunedì. Se ci sarà il posticipo lunedì alle 9 la sera. Scusa. E insomma, trille baraglie. Traduciamo per gli ascoltatori. Nel frattempo ci butta fuori il portiere per un fallo da ultimo uomo. Sì. E noi un portiere ci sa, ce ne sa altri. No, sarebbe due, però. Sì, vabbè, però secondo, ce diciamo, n'era che, uno. Sì. Ce n'era uno, sa, lunedì. Sicché tant'è che il mister fa: chi ce va adesso? Vedi Mazzeo che si era già spogliato, si era già cavato la tuta. Grande. Ci vado io. Alla Muscardelli. Sì. Idolo. No. Quattro gol ha preso. Ecco. Poteva andare peggio. Due su rigore, uno l'aveva anche preso. Potrebbe piovere, come dicevano in un film. Sì. Comunque è un ruolo molto difficile. Impegnativo. Credevo che era così, guarda. E c'era il portiere, quello che avevo buttato fuori, che gli stava dietro la porta e lo prendeva in giro anche. Invece d'aiutarlo, amico, io attento, Masa, mettiti qua, mettiti là. Eccoli che arrivano. Bellissimo, no, questo è forte. Eccoli che arrivano, nel senso che mette la tranquillità addosso. Sì, te le vedi venire su come la corazzata Potionkin. Soprattutto se sei l'ultimo baluardo della tua difesa, no? Cioè, poi proprio... sarà in nove a giocare, perché ci hanno buttato fuori anche un altro. Dopo ci hanno buttato fuori anche un altro. Sì. Perfetto. Continuiamo via con il rock and roll. Io dedicherei una canzone alla prestazione del Masa. Sì, anch'io. Allora, entriamo a gamba, anzi, entriamo in porta a gamba tesa. Con James Gang e la sua Funk 49, esatto, che è diventato uno standard del classic rock del periodo ed è stato utilizzato in diversi modi, pubblicità, film, eccetera, mm-hmm, eccetera. La dedichiamo al Mazzeo, che non è pronto. We'll be right back. James Gang e la sua Funk 49 dedicata alla prestazione in porta del Mazzeo. All'impavido portierone Mazzeo. E continuiamo con una delle canzoni più famose del rock, composta dall'intero gruppo Iron Man. È stata estratta come singolo nel 1971 assieme al brano Electric Funeral. Cioè intero gruppo, vabbè, tutti l'hanno scritto Pepper, tutti Potts, no, poi c'è Tony Stark, no, poi no. Mandarino e... Penso che si riferisse ai Black Sabbath, penso. Sì, la canzone, il cui testo tratta di un argomento fantascientifico, è una delle più note dei Black Sabbath, per l'appunto, e ha ottenuto nel tempo diversi riconoscimenti, tra cui l'inserimento da parte del programma musicale VH1 al primo posto della classifica delle 40 milioni canzoni heavy metal di tutti i tempi, la vittoria del premio Grammy come miglior canzone metal nel 99 e l'inserimento al 317° posto nella lista delle 500 migliori canzoni secondo Rolling Stones. Ricordando anche che il famoso riff di chitarra della canzone è considerato come il migliore riff di canzone heavy metal. Il brano è stato inoltre oggetto di cover da parte di diversi gruppi, tra cui Nox e Metallica, che hanno proposto la loro interpretazione in occasione dell'ammissione dei Black Sabbath alla Rock and Roll Hall of Fame. Contrariamente a quanto si pensa, il brano Iron Man non riprende le vicende del leggendario supereroe dei fumetti Marvel, ma vanta invece una storia propria. L'uomo di ferro citato nella canzone, di cui non viene specificato né il nome né il minimo dettaglio, ha intrapreso un viaggio verso il futuro, ma una volta arrivato vede che l'umanità verrà spezzata via da una grande catastrofe. Sapendo perciò cosa accadrà, decide di tornare all'epoca da cui veniva per avvertire in tempo l'umanità. Ma durante il viaggio di ritorno, a causa di un incidente, viene pericolosamente esposto a un campo magnetico che attraversa una mutazione genetica che trasforma la sua pelle in acciaio. Il viaggio viene completato, ma Iron Man è stato reso muto dalla sua trasformazione e incapace di comunicare verbalmente il disastro imminente. Inoltre, i suoi tentativi di comunicare vengono derisi e ignorati dalla stupidità e dalla ignoranza della popolazione terrestre. Non potendo sopportare tutto ciò e in un certo senso costretto dal caso, Iron Man vuole vendicarsi dell'umanità che lo ha deriso per troppo tempo e decide di armarsi e di approfittare dei poteri acquisiti per distruggerla. Si rende così conto che, cioè, arrivava lì per dirgli guardate che morirete tutti, state attenti, e poi è lui che poi, infatti si rende conto che esatto. La distruzione che aveva visto durante il suo viaggio nel futuro era sua, era stata causata proprio da egli stesso, che ha voluto vendicarsi della razza umana. Oh my. Black Sabbath, Iron Man. We'll be right back. Iron Man dei Black Sabbath. Continuiamo adesso con John Lennon e Working Class Hero. Una canzone così a caso. Sì, esatto, un altro singolone del grandissimo John. Dal primo album post Beatles di John Lennon, John Lennon Plastic Ono Band, che era la band della moglie. La band della moglie, esatto, Yoko Ono. Del 1970. La prima curiosità è che Lennon si considerava un esponente della classe lavoratrice, forse anche un eroe, ma dei Beatles era l'unico a essere nato e cresciuto in una famiglia borghese della classe medio-alta. Vero. Il padre qui avrebbe qualcosa da ridire. Da ridire sicuramente. Conoscendo le sue ideologie. Comunque, McCartney, Starr e Harrison, loro sì, erano cresciuti nella working class e per questo salutarono con poco entusiasmo la canzone, come farebbe il padre. Ecco. La risposta di Lennon fu impeccabile: ognuno è quel che si sente e soprattutto ognuno è come si comporta. Perfetto. Non fa una grinza. Chapeau, signori. Sì. La versione originale è frutto di due diverse take, ovvero, se fate attenzione, vi aiuterete anche con le cuffie, a un certo punto sentirete chiaramente un cambio di suono di chitarra e voce. Il verso che dice "devi imparare ad avere un sorriso che uccide se vuoi essere come quelli sulla collina", in inglese? Non lo so. Ah. Per anni è stato almeno sono onesto. Potrei interpretarlo, ma manca poco. E perderemo tempo e caleremo drasticamente di audience. Comunque, per anni è stato interpretato come un riferimento alla canzone dei Beatles The Fool on the Hill. In realtà si riferisce ai politici di Washington DC che governano l'America e il mondo. Il delegato democratico alla Casa Bianca per il West Virginia, Harley Orrin Steggers, denunciò la radio dopo aver ascoltato la canzone per la parola fucking ripetuta due volte nel testo. Il manager dell'emittente fu condannato a un anno di prigione e a una multa di $10,000, altri tempi per fortuna, perché insomma $10,000. Poi nel 70 $10,000, insomma, appunto, sono roba, Ma difese la sua scelta di trasmettere la canzone. Infinite le cover prestigiose, dai Green Day ai Manic Street Preachers ai Noir Désir, Tin Machine di Bowie, di Marilyn Manson alla per me più brava in assoluto Marianne Faithfull. By giving you no time instead of it all, till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20-odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. But first you must learn how to smile as you kill. If you want to be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Working Class Hero di John Lennon. Ho sposato il microfono un po' malamente. Niente, siamo arrivati alla fine anche per oggi. Siamo arrivati alla fine. Sempre informazione ridotta perché quell'altro, ormai lo chiameremo quell'altro. già. Tu fa schifo, Bozzone. Quindi noi oggi, visto che non abbiamo la sigla, vi salutiamo con una delle nostre classiche citazioni finali. Esatto. The Rock and Rolls, va bene? Sì, va bene. Magari dignola al Mazza, sì, questa, la questa citazione recita così, sì. Matteo, posso? Ma io metto questa, eh? Ma è quella, eh? È quella. Allora, poi è andata bene, allora, dai. Quando sei giovane e poco più che 21enne, tutto sembra disperatamente interminabile e terribilmente doloroso. Col crescere realizzi che effettivamente la maggior parte delle cose sono terribilmente dolorose e che questa è la condizione umana. Continuiamo, la maggior parte di noi, a sopravvivere perché siamo convinti che da qualche parte lungo il percorso, con risolutezza, determinazione e perseveranza, si realizzi un'unione magica con qualcuno. È una falsa credenza, naturalmente, ma è anche una forma di religione. Devi credere che una luce che non si spenge mai c'è. I want to see people and I want to see life. Driving in your car. Oh, please don't drop me home. Because it's not my home, it's their home and I'm welcome no more. And if a double-decker bus crashes in. To die by your side is such a heavenly way to die. And if a ten-ton truck kills the both of us, to die by your side, well, the pleasure, the privilege is mine. Take me out tonight. Take me anywhere, don't care, don't care, don't care. And in the dark and underpass I thought, oh God, my chance has come at last. But then a strange fear gripped me and I just couldn't ask. Take me out tonight. Oh, take me. Driving in your car, I never, never want to go home. Because I haven't got one for long. Oh, I haven't got one. Oh. And if a double-decker bus crashes into Gli Smiths, There is a light that never goes out. Bravo, tutta memoria. Tutta memoria. Siamo arrivati al termine. Sì. E ci dispiace per voi. Magari voi sarete meno dispiaciuti. Sì, sicuramente. No, naturalmente scherziamo. Ricordiamo l'appuntamento, se se ne ricorda anche al Bindi, mercoledì prossimo. Sì, infatti, ricordateglielo. No, voi. È via per lavoro. È via per lavoro. Ce n'ha una. D'altra parte ha un ruolo importantissimo nella società moderna. Nella società, sì. Fa niente, dalla mattina alla sera. Comunque, messo la base il biondo, ha sentito? Bellissima base, bravo Masa. Ricordiamo l'appuntamento con All Time Rock and Roll, la pagina Facebook, mercoledì prossimo, sempre dalle 19 alle 20. Sì. Stasera Claudio Sugar Night, domani sera Piazza Alta. E basta. Chi più ne ha più ne metta. No, tutto basta, questo, sono finiti. Tutto questo è Radio F. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti.